much more than a stake without the war. This is a trust that we've never had before. Run along a road, not knowing where I'm going. Planting up the seeds, not knowing what I'm sowing. Each sense in a direction of sense. Sitting in the middle, broke up the fence. Want to run and hide, but the world's too small. If I have to play, I beg your pardon for peace. In the universe, we need to rehearse. Heart make a world, and the world is a curse. Now I need a rest from a world to get a killing. International arms that are chilling and are willing. Well, she has enough, every man's need. Man's always killed to satisfy the greed. Is there any way out, or do they just drop it? Twist the technology to those who ain't got it. Buonanotte Radio Antidoto, buonanotte, come direbbe Lucarelli, Lucarelli di Linea Notte. No, ma non siamo noi Lucarelli, noi siamo Vittorio e Arancio che è al microfono 2. Buonasera Arancio. Buonasera da Arancio a tutti gli ascoltatori. Parla al microfono per favore. Parla al microfono. Parla al microfono. Parla al microfono. Ok, così meglio. Devi tenerlo proprio incollato alla bocca quasi. Ma posso tenerlo dentro la bocca? No, dentro la bocca ci trasformiamo in un giorno in cui in pretura, non in questura. Altri orifizi? Volevamo fare un programma di cultura, ma evidentemente di questo stiamo parlando. Non ci riusciamo. Culture Club è un programma che prende forma, diciamo, nelle serate sbandate di due scavoli a zonzo, visto che le nostre donne sono vicine e lontane, come dicono Tonico e Morfuco, e noi sbevazzando dell'ottimo Nero d'Avola, Doc, dei Blues Brothers, che si intitola Scognito questa bottiglia. Losco Scognito. Lo scongiuro. Lo scongiuro. E meno male che non si chiama Pino di cognome, ma giuro. Sì, scusate. E vogliamo aprire una diatriba su cosa significhi veramente cultura al giorno d'oggi e chi la fa, come la fa, quando la fa. Chi la fa l'aspetti, cioè io l'aspetto ormai. Comunque è un po' complicata, ma noi non abbiamo paura, quindi ci sentiamo un altro pezzo, così mettiamo in piedi i tasselli del nostro domino e capiamo cosa dobbiamo fare. Sto cercando, ma io non ho cultura, ho solo rap, quindi devo cercare qualcosa di una via di mezzo che si sa in media stat virus, come sempre la radio che ci ospita. Come? Come la radio che ci ospita. Perché? La radio che ci ospita è l'antidoto per il virus. È l'antidoto alla clausura. Ci sentiamo Chinese Man, quindi niente via di mezzo, subito con un po' di pop americano cinese. Chinese Man con I've Got That Tune. Ma sei tu Chinese Man? Ciao. Just be ladies, that's all. Cuoque tu, Catilina. Cuoque tu. Esattamente. E ci domandavamo noi altri, noi poveri illusi di questo lato di mondo, che cosa fosse la cultura in generale. Cioè, quando noi andiamo a un concerto e dicono che fanno cultura, è veramente cultura quando tu vai e usufruisci di un prodotto dell'industria culturale? Stai veramente usufruendo di cultura? O la cultura risiede solo nei luoghi accademici? O solo nel sapere? O solo nei grandi masterpiece nei musei? Tu hai qualche idea al riguardo, Arancio? Ma secondo me, volendo andare forse indietro nel tempo, non lo so, visto che comunque prima, insomma, nel fuori onda avevamo accennato anche al discorso, per esempio tu parlavi, vado a un concerto, ma effettivamente io sto andando a uno scambio culturale, potremmo dire, mi passi questa locuzione? Sì. E io ho detto, vabbè, anche tipo una rappresentazione teatrale, insomma, qualcosa del genere. Assolutamente. Volendo appunto prendere, insomma, le rappresentazioni teatrali per eccellenza, che sono per esempio quelle, insomma, greche, insomma, l'antica Grecia. O quelle di Shakespeare. O quelle di Shakespeare, ma secondo me già in Grecia potrebbe essere più, perché effettivamente lì c'era, per esempio per le tragedie o per le commedie, avevano effettivamente un ruolo specifico, e non era un ruolo culturale, è un ruolo educativo, che è diverso. Ok, okay. Quindi tu dici che la cultura deve avere uno scopo educativo? No. Come sto dicendo che proprio loro non consideravano questo lo scopo ludico. No, era per esempio per la commedia sicuramente uno scopo ludico, per la tragedia era uno scopo educativo, ma non era uno scopo culturale, uno scopo educativo nel senso di riuscire a scuotere in qualche modo gli animi, far riflettere su episodi comunque chiaramente abbastanza gravi, drammatici, e muovere sulla pateia delle persone. Scusa, mi traduci pateia in italiano? Non lo so, il pathos, insomma, nel senso però di... Non è quella spagnola. Non è quella spagnola, sicuramente. La pateia valenziana. Vai, continua, scusa. Però appunto non era... È un concetto di cultura distante da quello che magari oggi utilizziamo nel nostro linguaggio comune, nel nostro lessico comune, no? Lì era appunto uno scopo educativo, ma educativo nel senso di lezione di vita quasi, non tanto di lezione di un qualche tipo di... non lo so. Sì, ho capito, non di fisica. Era esattamente. Era sia il messaggio, ma anche la riflessione. Cioè c'era una forte parte introspettiva comunque. Un'intelligenza emotiva che già veniva strutturata grazie alle tragedie. Sì, era uno strumento, non finiva lì, perché poi comunque c'era tutta una parte di, chiaramente, di sedimentazione di quello che uno ha visto, sentito e ha vissuto, insomma, durante quella messa in scena, però non è una lezione didattica, ecco. Quello che penso, quello che pensavo, che stavo riflettendo mentre tu parlavi, me lo sono scordato. Ma sicuramente era una cosa intelligente, solo che mi è sfuggita. Se vuoi io posso ripetere quello che ho detto. Così riproviamo il momento catartico. No, allora, secondo te il teatro, che ha questa capacità di tirar fuori più emozioni e capacità di rappresentare meglio la realtà rispetto alla musica, rispetto che magari è più onirica, rispetto il teatro e il cinema, ma secondo me non è una questione, ti interrompo, non è una questione, diciamo, che magari ha una capacità in più, come hai detto adesso, scusami. Ho detto che secondo me il teatro e il cinema sono arti che hanno... Mi fai confondere. Che sono in grado di rappresentare meglio la realtà rispetto alla musica. non di tirar fuori questi sentimenti, perché è chiaro che ti emozioni pure con una canzone, più ti puoi emozionare pure su Beethoven, su Vivaldi, però la realtà rappresentata te la sbattono in faccia queste due. La musica come la poesia è più evocativa, onirica, sì, rispetto magari. Esattamente. E secondo te l'allontanamento a queste due pratiche nella società moderna, sicuramente quella del teatro perché c'è un forte allontanamento, al cinema ni, ma cioè, c'è un modo di fruire il cinema diverso, che ne so, ora ci vediamo i film di, come si chiama quello, Bruce Willis o Denzel Washington, e chiaramente non sono film reali. Ma perché tu lo vedi secondo me con il filtro degli occhi del nostro tempo, cioè il cinema. Allora, secondo te è plausibile questa discussione se non se la dissoci dal contesto società e cultura? Cioè, se scindi le due cose, secondo te è plausibile questa discussione? Secondo me dipende dal tipo di discussione che vogliamo avere adesso. Cioè, se pensiamo, cioè, ora è il che momento la cultura... topico. Esatto, cioè... Allora facciamo una cosa. Se una ricerca, scusami, finisco così. Vai. Se è una ricerca magari dell'essenza della cultura, oppure è una contestualizzazione della cultura? No, secondo me deve essere una contestualizzazione. Comunque, secondo me qua siamo due teste pensanti. E quindi mandiamo un pezzo. Facciamo fuori onda noi. Ci fumiamo? Fumiamo la sigaretta. Ah, ecco. E vediamo, ragioniamo. Bonobo, Between the Lines. Eye for an eye, tooth for tooth. Bonobo, Between the Lines. Abbiamo sviscerato vari pensieri, ma non siamo arrivati a un sunto della situazione fuori onda. E no, penso che sia, insomma, un po' da illusi pensare che arriveremo a una conclusione stasera o in futuro. O in futuro, sono d'accordo. Ma non un sunto. Ha una soluzione. Quello che voglio dire io, di cosa dobbiamo parlare? Del rapporto tra società e cultura durante i secoli o ai giorni nostri, oppure dell'essenza della cultura. Scegli tu. Scegli. Questo è un gran bel quesito. Secondo me già capire, appunto, io non credo che, insomma, possa esistere cultura slegata dal contesto in cui calata, insomma, nel contesto in cui esiste. Quindi possiamo pure fare una riflessione su cos'è la cultura in senso, diciamo, stretto. Sì, privo di legami, però, insomma, la cultura, insomma, è sempre espressione di qualcosa, è sempre espressione di un pensiero. Il pensiero non lo puoi slegare dal contesto in cui è immerso, quindi è un cane che si morde sì. La zampa. Sì. Qua la zampa, sono d'accordo. E una riflessione che faccio io, che mi sta a cuore, che per la riapertura del Teatro Vittorio Emanuele, all'epoca sotto l'amministrazione a Corinti, è stato organizzato un grande concerto e molte persone sono venute con un panino e se la sono mangiate in piccionaia. Io ero in piccionaia con mio cugino e mentre mangiavano i panini, le persone dicevano: "Oh, ma stanno mangiando i panini, stanno mangiando i panini, addirittura mangiano a teatro". Come orrore e sgomento. Come affibbiare al teatro un elitarismo che non gli appartiene. E secondo me avviene questo per moda, con molte cose, anche col cinema, con la musica. Cioè, ha senso tutto, secondo me, è arte tutto, però cultura è un altro tipo di discorso. Cioè, puoi avere pure la cultura nella trash music, secondo me. Sì, il knowledge, secondo me sì, su questo sono abbastanza d'accordo, ma infatti è effettivamente cultura quello, cioè mi spiego meglio. È ovvio che sia nel teatro, sia nel cinema, appunto ne parlavamo prima, ci sono sia le cose più popolari, più accessibili, okay. E invece tipo le cose più d'avanguardia, più sperimentali, eccetera, eccetera. E questo è un tipo di riflessione. Un altro tipo di riflessione potrebbe essere: ma io sono lì perché così mi sento meglio il mio spirito, tra virgolette, mi sento ne guadagno, appagato, ne trae giovamento. Esattamente, perché magari appunto io sono convinto che sto facendo qualcosa di appunto elitario, insomma. Esatto. Oppure apprezzo veramente ciò che guardo e ciò che sento. Esatto, è una cosa autoreferenziale oppure... Per apprezzare ciò che guardo e ciò che sento è necessaria educazione, secondo me. Non educazione nel senso forchetta a sinistra, coltello a destra. No, chiaro, chiaro. Educazione. Sensibilità, anche abitudine al gusto. Certo, ma secondo me questo è qualcosa che si deve sviluppare, ecco, non è qualcosa che si deve apprendere in maniera tradizionale, cioè lezione frontale diretta in quel senso, però sicuramente per poter magari apprezzare a fondo, cioè non rimanere a un livello superficiale, quindi riuscire anche a cogliere qualcosa di più, c'è bisogno, insomma, chiamiamola esperienza, è un termine che secondo te può funzionare? Secondo me funziona meglio educazione, proprio con quell'accezione di cui prima abbiamo... Va bene. Cioè, perché educhi il tuo gusto, senso a qualcosa. Sì, è la capacità di accogliere... Esatto, ciò che viene rappresentato. Sì. Ciò che viene rappresentato. Perché, per esempio, io posso godere di uno spettacolo di musica classica, però sicuramente non ne carpisco l'essenza, in quanto il mio gusto è un gusto strettamente urban, strettamente hip hop, mentre uno spettacolo teatrale, dopo che sono andato 100.000 volte a teatro, io posso dire di godermi ogni tipo di spettacolo teatrale, che sia teatro e danza, danza e musica, che sia teatro poesia, che sia teatro sperimentale, che sia un grande classico. Per dirti, ho visto Erlitzka fare, non mi ricordo che tipo di spettacolo, però sono uscito pazzo, e l'ho visto al Vittorio Emanuele, che è il covo dei BN. BN, per i non messinesi, sono i bacianicchi, e che significa i culi rinisciuti. Intraducibile. Mentre invece altre cose non riuscirei a godermele come quelle. Ma allora io ti faccio questa domanda. Vai. È una questione di numeri, cioè tu prima hai detto mi sono visto 100 rappresentazioni teatrali, eccetera eccetera. È questo quello che ti dà gli strumenti per poter apprezzare, oppure c'è dell'altro? Sicuramente c'è dell'altro anche. Però fa parte di quel concetto dell'educare, secondo me. La quantità aiuta ad educare E su questo siamo d'accordo. Su questo sono perfettamente d'accordo. Non è l'unico elemento. Esattamente, e serve anche una sensibilità più o meno sviluppata per determinate cose. Serve... Che serve di altro? Tanki Arancio. C'è un disco di un mio amico che si chiama Arancio, però in sardo. A Catania. No, lui è sardo. Arancio a Catania. Arancio. Comunque, che altro serve? Secondo me è una di quelle cose, cioè queste cose si possono insegnare, si possono imparare, oppure fanno parte di quelle cose che... C'è un libro molto interessante che si chiama L'arte di ascoltare e i mondi possibili, di una scrittrice il titolo italiana. È fighissimo, molto bello, poi te lo presto. E praticamente riflette, è un libro secondo me anche un pochettino su, non strettamente diciamo di pedagogia, però ha a che fare con l'insegnamento, ecco, come disciplina proprio, con l'educazione. E infatti, ora ci entriamo, cioè lei... Aspetta, ci sentiamo un disco. Vai. Di Bob Marley, e ci addentriamo nello specifico del libro, che si chiama, di nuovo, ripetilo, L'arte di ascoltare mondi possibili, della Klaus, mi pare. Dai. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. Comunque non era Bob Marley, sono un coglione, ma questo a prescindere. Parlaci del libro Giovane Arancio. Allora, proprio volendo spendere giusto 2 minuti e sì, non di più, anche perché il libro l'ho letto una vita fa, quindi i dettagli ormai sono persi nella storia dei tempi. Parte da un quesito, cioè tutto è insegnabile, tutto è apprendibile, e secondo la scrittrice che si rifà insomma a la pedagoga, le teorie, com'è? La pedagoga, che in realtà non è una pedagoga, se non sbaglio lei è sociologa, okay, e sostiene di sì, e si rifà praticamente a degli insegnamenti di uno studioso insomma americano che le ha studiato a fondo, che purtroppo non ha avuto modo di conoscere di persona perché purtroppo è venuto a mancare proprio quando lei stava andando negli Stati Uniti per insomma conoscerlo. E fondamentalmente, ma lei di dov'è? Non me lo ricordo. Ok, ce lo cerchiamo. Lei sostiene di sì. Il libro, anche diciamo tutte quelle cose che sono legate magari all'intuito, magari quando si dice sì, perfetto, quel bambino, quella bambina c'hanno quel quid, c'hanno quella sì, cosa in più che riescono subito a cogliere, eccetera eccetera, che sono delle cose innate. Ma queste cose innate effettivamente sono trasferibili, cioè sono delle cose che possono essere poi cultura genetica, esattamente, non necessariamente cultura genetica, più che altro sono degli strumenti che chiunque può poi acquisire. Secondo lei sì, effettivamente è possibile. E lei ha fatto molta divulgazione, insomma, tiene penso un corso all'università proprio su questo, quindi è abbastanza esaustivo. Sì, un bel libricino. E secondo te i cinepanettoni sono cultura anche, cioè c'è la cultura dei cinepanettoni? Allora, è una cosa, mi fa molto ridere questo, perché ho letto un articolo non troppo tempo fa su, a quanto pare, io non sono sicuramente un esperto di cinema, non mi spaccio per questo, né tantomeno di cinepanettoni, forse di panettoni però. Come no? C'è ultimamente una rivalutazione del cinepanettone in chiave positiva. Sì, la tua espressione non era solo un'espressione. Però il discorso fondamentalmente è che insomma c'è questa critica che immagino comunque non sia poi insomma una troppo strutturata, troppo generica, troppo generale, mettiamola così. Però appunto rivaluto il cinepanettone in quanto alla fine sono dei prodotti che sono stati creati letteralmente con quattro soldi in croce. Per esempio in Natale a Batte la Pesca, sì, sono un esperto, per esempio in questo articolo sì, che riprendeva insomma tutto questo filone di critica, citavano il fatto che comunque questi film dovevano farli in poche settimane, in un periodo estivo, e quindi per esempio andavo periodo invernale. No, perché doveva uscire in inverno, quindi lo giravano d'estate. E come fai a fare Natale in inverno? Esattamente, quindi per esempio andavano in questi paesini di non so dove, che loro poi spacciavano come Cortina, come Cortina eccetera eccetera, Courmayeur. E letteralmente giravano casa per casa, andavano a chiedere, raccattare lenzuola che poi univano e li utilizzano per esempio per fare i fondi delle scene con la neve eccetera eccetera. Quindi c'era una rivalutazione anche in questi termini, nel senso dell'inventiva, del riuscire insomma a soluzioni non convenzionali, sì, eccetera eccetera. E poi, ovviamente, comunque la tua domanda è un prodotto culturale, però qua torniamo al discorso di prima, cioè cosa vuol dire cultura e cos'è effettivamente un prodotto culturale. È un prodotto di un certo tipo che ha sicuramente come obiettivo l'intrattenimento, no? Sì, però intrattenimento non è sempre cultura. Ma andiamo avanti. Avevo una domanda pronta. Aspetta, fammela riprendere. L'ho persa. Non riesco a ripescare. Cinepanettoni. Produzione, no, inventiva, soluzioni creative. No, era slegato secondo me. Ok. Vabbè, ci sentiamo un pezzo che hai scelto tu? Qualcosa di diverso rispetto a prima, forse. È qualcosa di La forza dei cavalli. La forza dei cavalli. O degli orsi. Scegli tu. Ecco, il vino che comincia a salire. Ma che? Ormai siamo adulti e non vaccinati. Quindi ci sentiamo Horse, che potete coniugarlo o in italiano o in inglese, Power, con HDN. Dai. Down. L'aereo ha decollato, come si dice per San Giovanni. In ogni caso, Tancredi, ti avevo dato un compito. Orange, ti avevo dato un compito. E allora, come continuiamo? Intanto siamo sempre qua. La nostra bottiglia è sempre più vuota. Parliamo di vino, ma... O del divino. Stavo pensando, come nel vino, insomma, ci sono i blend. Secondo me è una cosa anche che ti sta abbastanza a cuore. Come nel vino ci sono i blend, comunque nella musica c'è sempre un... Il crossover. C'è sempre il crossover, c'è sempre il sampling, comunque c'è sempre la possibilità di rifarsi, attingere, insomma, da... culture che magari non appartengono, e da qui le cheat e riuscire anche a dare una nuova reinterpretazione, quindi anche riuscire a scuotere i canoni, riuscire a decontestualizzare e riportare su un piano totalmente diverso, e quindi appunto questo probabilmente risponde in parte alla domanda di prima, cioè che non può essere slegata dal contesto. Assolutamente sì. Per fare un esempio, Marrakesh, ultimo album. Ok. Non mi ricordo come si chiama il titolo, ma campiona Firenze di Ivan Graziani. Una canzone triste. E ci fa un pezzo assurdo, moderno, okay. Pop. Quasi pop, quasi totalmente pop, e che secondo me va a ripescare nel pop dell'epoca, nel cantautorato dell'epoca, il nuovo cantautorato moderno, mm-hmm. il rap, che ormai a Sanremo sono tutti rapper, e dico perché sto parlando di quello che conosco, e lo trasforma su un beat, gli dà nuova forma, nuovo valore, perché parla di woke culture, parla di Palestina, parla di conflitti mondiali come la Palestina, mm-hmm. parla di solitudini globali per i social network, per i device che usiamo, con una canzone che parlava di tutt'altro. E allora, se tu metti insieme questi mattoncini, cioè il pezzo di Marrakesh è una costruzione su dei mattoncini antichi, è una ristrutturazione, per usare termini ingegneristici, okay, sì. Una ristrutturazione di lusso. Come mai? Questo perché fa un bel prodotto, okay. Non solo bello, ma anche con sostanza. E secondo te la forma è sostanza? Qua entriamo, diciamo, nell'antica... Nello zappato, nello vero? Zappato, nell'antica guerra tra forma e contenuto di base. Secondo me sono sempre cose abbastanza... Da una parte legato ai loro, ma vai. Secondo te si toccano? Secondo me si possono toccare, ma si può fare anche un esercizio per creare dei contrasti. Quindi magari appunto un contenuto profondo con una forma più vicino alla bocca. Con una forma che invece non è aulica. E, okay, e non... viceversa. Aulica nel senso stretto del termine, no, non nel senso stretto del termine. Certo, in senso lato. Non lo so. Ma poi... non so neanche se voglio continuare questa riflessione da parte mia. Nel senso che non sono... È una domanda che mi pongo spesso. E non arrivo mai al capo del groviglio. Come penso un po' tutti. Riesci, diciamo, a rendere chiaro quello che quel sito, ecco, magari volendo. Cioè, puoi fare 16 barre, mm-hmm. e puoi fare bene con gli incastri. Ma se dentro non c'è niente, è comunque bello. è un esercizio stilistico, un esercizio di forma, comunque fine a se stesso. Anche quello, ma dico, non è che per forza, cioè, l'arte deve avere un fine, cioè non può esistere una cosa che è puramente bella per il puro piacere di appagare l'occhio, l'orecchio, cioè secondo me nel senso questa ricerca estrema della ricercatezza, ecco, non è una cosa strettamente necessaria, cioè perché tutto deve essere per forza perché tutto deve avere effettivamente un senso, cioè c'è un valore, un motivo, un valore, cioè è ovvio che ci sono cose che effettivamente hanno un significato, eccetera eccetera, come ci sono cose che invece puramente sono belle a prescindere dall'intento magari più, diciamo, più stratificato, okay. Dobbiamo utilizzare questo. Quindi tu dici che è un loop questo, la forma e sostanza? Ma secondo me non esiste nemmeno, diciamo, una forma giusta. Ma sì, comunque una risposta definitiva, non ambigua, unica, univoca. Univoca, bella parola, univoca. Non lo so. Anche lì, comunque, secondo me, riprendendo il discorso di prima, comunque, dell'attingere, eccetera, eccetera, ecco, là, secondo me, già è più delicato, perché nel momento in cui tu... Allora, premessa che, secondo me... Graziani fa schifo. Graziani fa schifo. Non è vero, Graziani è il più grande cantatore italiano, secondo me. Secondo me, secondo me dipende, nel senso che nel momento in cui io attingo... Sì. Per esempio, tu facevi prima l'esempio con Marracash, no? Esatto, e con Graziani. Con Graziani, sicuramente. Che sballo. Sicuramente c'è, cioè, una dimostrazione in qualche. Ecco, una dimostrazione di cultura, una dimostrazione di conoscenza. Anzi, secondo me è dimostrazione di legittimità di quello che era prima. In che senso? Che quello di prima è veramente qualcosa di legittimo se è considerato arte. Ma legittimo rispetto a cosa? Legittimo rispetto al tempo suo, al tempo contemporaneo. Ok. Capito? Sì. Cioè, perché l'arte è senza tempo alla fine. Sì, sì. Può invecchiare meglio, può invecchiare meglio. Esatto. Però sì, sicuramente è senza tempo. Comunque, la riflessione che stavo facendo è sicuramente quella di dimostrazione o di conoscenza o di cultura. Io su questo non ne sono sicuro. Però il fatto comunque di riuscire a ecco, è una domanda, un'altra domanda che ti faccio, il fatto di riuscire a ricontestualizzarlo, ok? È anche questo, diciamo, un'espressione in qualche modo culturale, oppure appunto è un esercizio? Secondo me è bravura. Ok. È una cosa slegata, insomma. Sì, sì, sì, secondo me è l'unica abilità emotive e abilità stilistiche. Stilistiche. Alla Halbar, dove dovremmo essere noi adesso, da Martorana. Esattamente. Che salutiamo. Ciao Martons. E vi lasciamo con un brano, perché ormai abbiamo fatto un'ora. Quasi un'ora, ben 56 questa minuti. Questa regola che bisogna fare un'ora, cioè, chi no, non è la regola, però nel senso io sono sbronzo. Va bene, va bene. E comunque, insomma, abbiamo fatto abbastanza, penso. Sì, servizio pubblico l'abbiamo. E secondo me possiamo replicarlo, porca assolutamente. Puttana. Perché secondo me abbiamo fatto un bel prodotto, come Marracash. Ma è un prodotto Graziani. Culturale? Secondo me è più un prodotto divulgativo. Va bene, sì, ci sta. Ecco, forse la riflessione che con cui potremmo lasciarci, con cui potremmo concludere... Pendo dalle tue labbra. E magari il fatto di utilizzare con più rispetto e con più cautela il termine cultura, il termine culturale, eccetera, eccetera. Con più riflessione. Con più riflessione. Con più riflessione. Mm. Sto aprendo un'altra parentesi, ma non la voglio aprire. La segniamo però? Ne parleremo fuori onda. Vabbè. Fuori onda. Ci sentiamo Karim et le Loop di Karim Oulette. E a risentirci. Grazie a tutti. Ciao. Je t'écris ceci au bord du gouffre. On dit qu'on en sort plus fort quand on souffre. imposture, quelle imposture, quelle imposture. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour nous. Sommes dans la...